and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. E smetti, dai, con stuculele. Ti accordi così, in diretta radiofonica. Hai qualcosa da dire importante, no? L'infantilismo, i temi sì, importanti. Ecco, direi che, allora, parliamo subito dell'infantilismo. Io accordo. Di questi ultimi giorni. Io direi che l'immagine chiave delle ultime settimane è il bambino premier con una lavagnetta in mano dove c'è disegnata una bilancia. Ho scritto prima e dopo. La bilancia è... la dieta, fai la dieta. Esatto, ma anche la sua riforma della giustizia, capito? Cioè la sua, insomma. La giustizia è stata riformata da Alfano. Prima è squilibrata. Prima squilibrata, poi dice dopo ci sono queste due bilance, questi due piatti della bilancia perfettamente allineati. Quindi lui in quel modo è convinto di aver spiegato ai giornalisti che erano lì presenti nel dettaglio la sua riforma della giustizia. Ma non è il dettaglio, no? I dettagli sono inutili, bisogna semplificare. Tito, scusa. Appunto, mordi il tuo padrone. Ho capito, però scusa un attimo, se semplifichiamo il mondo diventa più semplice, più voglio dire anche l'ukulele. Cosa c'entra adesso? È più semplice della chitarra, perché intanto ha due corde in meno, quindi più semplice. Sì, però tutti i chitarristi dicono ci sono quattro corde, quindi non so come fare gli accordi. Ma e sono è già vero, tutti in paranoia. I chitarristi quando fanno gli accordi c'hanno sempre due corde di troppo, quindi devono stoppare o ripetere Tito, cioè, guarda che ha ragione, c'è le unghie e le zampette. Invece l'ukulele potrebbe quasi suonarlo anche Tito, perché sai che l'ukulele se è accordato tu lo suoni libero, è già una canzone, guarda, così. E questa è una canzone? Ti faccio, adesso te la questo faccio, sta bravo, ho capito, però se tu fai così, queste sono un accordo dopo l'altro, dalla quarta alla prima, adesso se io le faccio così, cosa ti viene in mente? La canzone di Carletto, quando eravamo piccoli, ti ricordi? Carletto. Vedi che torni anche tu, bambino. È vero. Ti torna una memoria. Ti ricordi? C'era Corrado. Era Corrado. Corrado era che però adesso Corrado. Tutti e due. Però comunque sì, tutti e due sono. È morto. Sono tutti e due, è morto, effettivamente. Sì, certo. È peccato. Comunque, sono sempre i migliori. Carletto, vedi, no? Faceva proprio così, faceva. E io che sono Carletto, l'ho fatta nel letto, l'ho fatta nel letto, l'ho fatta per fare un dispetto, che bello scherzetto per mamma e papà. No, vabbè, ecco, però piangono i bambini, Carletto poi cresce, perché questa canzone, hai detto bene, era quando eravamo anni, piccoli noi, inizio anni 80, fine anni 70. Ormai Carletto, insomma, è invecchiato. Invecchiando la nostra età, tipo. Potrebbe essere forse qualche anno di più. Vabbè, comunque se è un'età critica, non è detto che Carletto, capisci? Lui la faceva nel letto, adesso ti immagini che abbia una vita piena di soddisfazioni, dei figli. Invece potrebbe essere che Carletto, sono passati gli anni, però. Sono sempre Carletto. Gli metto anche un accento. Continua, abitato a Napoli, giù da là, non mi ricordo, adesso questo è più siciliano, quindi non lo so. Non importa. Ehi, sono sempre Carletto. Continua a farla d'indulet. Ma come? Continua a farla d'indulet. Ma quanti anni c'ha? Comincia ad avere sospetto di avere un difetto legato alla prostata. E ora, bambini, ricreazione. Bambino Alberto, allora, la tua pagina di Facebook è sempre in aggiornamento continuo, un sacco di amici nuovi. Però c'è una cosa video, che non va, tutte queste cose. Però abbiamo notato appunto che manca un amico nella lista. Se il tuo amico vero, immaginario che sia, è Gildo, perché non è tuo amico su Facebook? C'è Tito, ma non c'è Gildo. No, perché Gildo è il mio amico. Quindi? No, io su Facebook dovrei condividere con gli altri. Invece no, e Gildo è solo l'amico mio, no? Capito? E sei qua, Ah, è qua. Gildo. Sì, vabbè, ma bambino Alberto, cioè, tu hai questi sdoppiamenti di personalità per cui assumi un'altra voce, fai il ventriloquo, è il ventriloquo alla radio, poi non funziona tanto. Ma non so neanche cosa vuol dire ventriloquo. Vabbè, cioè, sarei ventriloquo, sì. Cioè, guardatemi, cioè, questo parla e io sono la bocca aperta, parli con il ventre. Comunque non è Gildo solo l'unico tuo amico, insomma lui manca da Facebook, invece quelli che ci sono sono molto attivi, mandano nuovi, un sacco, no? Di certo. Gildo c'era sempre. E questi nuovi come sono? Sono tanti, non è che riconosco tutti. Sono più amiche o amici? Sono più bambine o bambini che diventano tuoi amici? Forse ci sono più bambini di bambine, però le bambine sono quelle con cui parlo di più. Chissà perché, furbacchione. Ma no, perché ma non sono io, sono le bambine che sono gentili, no? Gentili, vabbè. Sono più mature forse. Certo, sì. Beh, maturano sono prima le bambine. Un po' anche mature forse. Ma smettila, ma io non so neanche quanti anni hanno, per me sono tutti bambini e bambine. Ma è così, bravo, bravo bambino Albertengo. E quindi allora, che cosa ti arrivano? Non so, le ricette dei finocchi cotti? Allora, c'è qualcuno che mi manda le ricette. Allora, per esempio, c'è la bambina Carolina. Sì. Ti manda sempre delle ricette di finocchi cotti però. Vabbè. Se ho detto che fanno schifo, lo devono sapere, ma perché li provoca con le ricette fino a che cosa? Perché visto che tanto li devi mangiare, ma magari è colpa nostra, siamo noi che abbiamo chiesto di mandare certo le ricette e poi comunque magari capisci, siccome comunque li mangi, magari ti danno il suggerimento giusto per renderli un po' più sfiziosi. No, ma io dagli amici mi aspetto che mi mandano una ricetta di qualcos'altro, no? Che mi piace. Magari ti mandano direttamente il formaggino o i budinetti in allegato. E infatti, cioè, per esempio, la bambina Letizia, sì, ecco, che lei mi manda i dolcetti, no? Le merendine, ma in foto, i budinetti. Ma come? Attraverso internet? Attraverso internet! Mi arrivano all'asilo! Ma come? In portineria! Ma no, ma se avessi d'accordo, per favore, se mi porti, che mi ha regalato una borsettina per mettere dentro roba da mangiare, no? Sì. Addirittura? Allora, sì, e io lunedì mattina mi ritrovo la borsetta con le cose da mangiare. Vabbè. E me li nascosto però da solo io! Infatti, non si può! A parte Gildo, gli do un budinetto, una merendina, se le fa. Alla vaniglia, al cioccolato, poi sempre deciso, perché è come l'asilo di Muridano, no? Capito? È uno l'altro. E la ferma adesso. Gildo, dai! Dai, Gildo, basta! E noi gli ha preso la sindrome dell'angelo di Muridano! Bambino Alberto, Gildo, basta! Allora, sento tarantola, sento il ventriloquo. La sento anch'io, vado con questo, vado con questo. Senti, vado con questo, vado con questo. Ma lui parla con questo, vado con questo. Vado con questo. Alla fine rimane lui e muore di fame. È morto. E ora, bambini, e tutti a casa! Cos'è? Ancora 5 ore qui, dopo aver fatto l'asilo, dopo aver fatto il nostro lavoro, il nostro dovere. La ricompensa è stare ad aspettare ore e ore queste macchine. Cioè, lo facciamo ormai da 7 mesi, sta bravo, se ti lamenti, adesso ti lamenti. Devo fare arrivare la mia voce a qualcuno dell'asilo che risolva questa situazione, perché non se ne può devo più. Devo fare come parli. Devo telefonare all'amministratore dell'asilo, lui deve risolvere la questione del traffico. Ma lui non ti risponde, ti risponde mai? Pronto? Amministratore! Chi parla? Siamo qui dall'asilo, K e Drago. Devo richiamare, sono in un posto rumoroso. Ma è sempre così. È una discarica. Ho capito, però amministratore, scusi, qui le cose all'asilo stanno andando come al solito male. Volevamo lui alla discarica. Vengo io uno di questi giorni, metto in riga tutti. Va bene. Contiamo su di lei. Cominciate a separare i bambini neri da quelli bianchi. Tutti più carini, oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Un programma di K e Drago. Soldomila. Mandate i vostri accordatori di ukulele a chiedo asilo @radio24.it. Mila.